双唇音 M M Mela Mela Mano Mano 练习 Mamma Mamma Amare Amare Meta Meta Male Male Amico Amico Amore Amore Matto Matto Mito Mito Come Come Muto Muto Melo Melo Metro Metro Bambola Bambola Tomba Tomba Bomba Bomba Tempo Tempo Timbro Timbro Campo Campo Bambino Bambino Sempre Sempre Membro Membro La mela è molto buona. La mamma ama la bimba. Emma è una mia amica. 谚语 Proverbi. A mali estremi, rimedi estremi. Volpe che dorme, vive sempre magra.